Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa. Sì, cioè, ci siamo un po'. Qua siamo dottoressa, infermiere, sì, giornalista, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Ebbene sì, tutti possono, tutti possiamo risparmiare monetina dopo monetina, tutti possono parlare di risparmio, imparare qualcosa sul risparmio, più che possono oggi devono, tutti dovremmo impegnarci un po' di più a prendere confidenza con il gergo della finanza, con le questioni legate appunto al risparmio. Noi tutto questo lo ribadiamo giorno dopo giorno a Cuore Denari e con ancora più forza lo vogliamo sottolineare da questa postazione che stiamo occupando in questi giorni all'Università Bocconi di Milano, dove si sta svolgendo la sesta edizione del Salone del Risparmio. Oggi sono sola, Nicoletta mi ha abbandonata virtualmente solo per questa giornata, ma naturalmente domani tornerà a farmi compagnia qui sempre dal Salone del Risparmio. Per partire in questa seconda giornata della nostra presenza al Salone abbiamo scelto un modo molto originale sul quale in realtà vi ho un po' già alzato il velo nelle anticipazioni durante il giornale radio, ma prima di presentarvi l'ospite che ci farà compagnia nella prima parte appunto della trasmissione, un grande atleta, ve l'ho già anticipato, Iuri Checchi, che ci sta raggiungendo, in realtà la cronaca ci impone di dare un'occhiata anche oggi a quello che accade sui mercati finanziari. Abbiamo un ribasso abbastanza consistente fra i listini europei, un punto e mezzo di calo in media fra Francoforte, Parigi e Milano, ma soprattutto il segno più c'è sul prezzo del petrolio. Sta tornando qualche tensione geopolitica concentrata in Medio Oriente. Abbiamo sentito anche nel giornale radio che c'è questo attacco della coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro i ribelli in Yemen, e tutto questo sta portando e alimentando l'incertezza degli investitori, ma soprattutto mettendo le ali al prezzo del petrolio. Facciamo allora oggi in apertura, approfittando di tutte le presenze di autorevoli esperti qui al Salone del Risparmio, un punto della situazione su questo. Maurizio Mazziero di Mazziero Research, benvenuto. Buongiorno, grazie Deborah, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È passato a salutarci qui al Salone, io mi sono detta, sa che c'è dottor Mazziero, venga un po' a raccontarci quello che sta succedendo, perché in realtà il petrolio è stato il grande osservato speciale degli ultimi mesi, da giugno in avanti, da quando ha preso invece una tendenza del tutto contraria a quello che stiamo raccontando stamattina. Ma stamattina, secondo lei, non le faccio fare l'analista geopolitico naturalmente, però la tendenza è interessante. Abbiamo di nuovo un po' di speculazione che prende l'occasione di queste notizie che arrivano dall'Arabia per ripartire con gli acquisti sul greggio, oppure ci stava qualche ricopertura? Poi do agli ascoltatori anche le quotazioni di stamattina su Brent e WTI. Ma intanto diciamo che il petrolio ha avuto negli ultimi, diciamo, sei mesi, nove mesi, comunque un cambiamento strutturale, questo l'abbiamo visto con il forte calo che c'è stato dei prezzi. Al tempo stesso il petrolio è anche un termometro di quelli che sono gli equilibri e le tensioni geopolitiche. Ecco che quindi in un settore geopolitico che è quello del Far East, del Medio Oriente, quando sale in qualche modo la preoccupazione, ecco che a questo punto il petrolio tende a salire in maniera naturale. Quello che è importante andare a vedere, proprio per cercare di leggere questo cambiamento, è quello di andare a vedere quello che è lo spread tra Brent e WTI, spread che si è ampliato. Ecco, quindi non so, magari se vogliamo dare diamo le quotazioni. Il Brent, ricordiamo, visto che siamo al Salone del Risparmio, facciamo anche un po' di educazione finanziaria, è il greggio prezioso del Mare del Nord, quindi il petrolio di riferimento europeo, e quota stamattina la scadenza, che adesso le dico scadenza maggio, quindi è un futures comunque, sì, esatto, $58.40 al barile. Per quello che riguarda il WTI, il greggio di riferimento americano, stessa scadenza, siamo a $51.07, per cui lo spread è di $7 fra i due. Ecco, che è uno spread piuttosto ampio. Che cosa ci dice quindi lo spread? Cerchiamo di leggere questo dato. Il fatto che c'è una forchetta piuttosto ampia è proprio sintomo del fatto che in Europa, e quindi quello che è il vicino Medio Oriente, ci sono delle tensioni, quindi il prezzo tende a salire sul Brent. Per quanto riguarda il WTI, ci troviamo ancora in una situazione di forti scorte davvero ingenti, una produzione che anche a livelli bassi del petrolio comunque è andata avanti, è cresciuta negli Stati Uniti, e quindi tutto sommato il prezzo è più sotto controllo. Poco tempo fa io ho anche fatto, gli ascoltatori eventualmente possono andarlo a trovare, nel sito Mazzero Research, si trova un articolo in cui io evidenziavo alcune particolarità in cui i livelli delle scorte adesso negli Stati Uniti sono a livelli molto elevati, ed è una situazione molto simile a quello che è successo nel 1990, all'epoca della prima guerra del Golfo. Mm-hmm. Cioè, le scorte che cosa ci dicono? Ci dicono guerra. Accumulo come un po' una formica, naturalmente, per l'inverno, mi viene da dire. E questo, noi invece pensavamo che magari le scorte americane fossero legate un po' alle eccedenze di petrolio che ci sono, condizionate anche dalla produzione di shale gas, da questa grandissima rivoluzione industriale americana che si sta appunto realizzando da qualche anno a questa parte, e invece ci dà un'indicazione di ben altro. Sì, perché se si va a vedere quella che è la differenza tra quanto è l'aumento di produzione e invece quello che è l'aumento delle scorte, si vede che le scorte stanno crescendo all'incirca 50 volte superiori rispetto al ritmo di aumento della produzione. Dobbiamo scolpire sulla pietra queste sue parole e naturalmente farne tesoro per monitorare un po' anche a livello internazionale. Allora, quello che potrà succedere nei prossimi mesi, questi focolai sono costantemente accesi, Mazziero, questo in sostanza è quello che lei ci sta dicendo. Sì, questo e potrebbero riesplodere in maniera un po' più preoccupante. C'è molto nervosismo e probabilmente in questo momento quello che io vedo è un po' un'accelerazione di queste tensioni, di questo nervosismo. Benissimo, benissimo per la sua spiegazione, non tanto bene naturalmente per quello che ci dobbiamo aspettare. Monitoreremo nel corso della giornata, intanto vi preannuncio che il nostro ospite si sta posizionando naturalmente qui seduto accanto a noi, tanto piacere, sto stringendo la mano, lo dico a beneficio dei nostri ascoltatori, a Yuri Checchi, a cui non faccio commentare naturalmente l'andamento del petrolio. Benvenuto intanto. grazie. Eccoci qua. Magari grazie. Se fossero andati con un'alimentazione tipo diversa, i treni Trenitalia sarebbero arrivati un po' più puntuali. Ecco, ci vorrebbe la smaterializzazione. Non vorrei affrontare adesso l'argomento. Lasciamo un attimo adesso così sfreddare, sbollire, perché ha fatto una gran corsa per raggiungerci. Grazie. Mazziero, cosa dobbiamo aspettarci da qui? Rivedere le quotazioni su livelli di nuovo in salita, insomma, le abbiamo dimezzate da giugno ad oggi, siamo intorno ai $50-60. Una piccola proiezione da parte della Mazziero Research sulle quotazioni appunto dell'oro nero. Sì, allora è sempre difficile, lo sa, certo, che tutte le volte che io... Sul debito pubblico le fa però molto azzeccate, sì. Sul petrolio è più difficile. Sì. Allora diciamo che però, ecco, come ho esordito, il mercato del petrolio è cambiato in modo strutturale, quindi non possiamo al momento, salvo davvero panorami molto molto brutti, andare a rivedere il petrolio a $100. No, non è questo il caso. Mm-hmm. Però una quotazione tra i 40 e i 50 è una quotazione che è troppo compressa. Io direi che per quest'anno potremmo pensare a una quotazione tra i 50 e i 60, se dovesse superare i 60, sto parlando del WTI, quindi diciamo, perché il Brent ormai ci siamo. Sì. Ecco, il faro è sempre il WTI, è quello che dobbiamo guardare, e poi tutto il resto si ricava di conseguenza. Però diciamo che da quello che abbiamo appreso stamattina, il faro sono le scorte americane, sì. Direi di tenere sotto controllo quella adesso come elemento un po' condizionante anche degli scenari geopolitici. Grazie a Maurizio Mazziero per essere stato con noi, buon proseguimento di salone. Grazie a voi tutti, buongiorno. Possiamo sentire il file che abbiamo preparato, il nostro contributo? The first gymnast to win a medal for Italy since 1964, and remember it was gold. The red-headed Italian with the Russian name who is said to own this event, and he did other nights. Yuri Checchi. Yeah. the strongest man in gymnastics, and it belongs to this man. This is great because he gets to do rings the way he wants to do it. No rules here. Ci piaceva questo commento con le voci americane, Iori. Intanto benvenuto. Grazie, grazie Deborah. Perché ci sembrava particolarmente emozionante, anche se poi anche quello con i commentatori italiani, dove ci dicevano eccolo che vola, vola, se non mi ricordo male. Sì, sì, il mitico Andrea Fusco. Altrettanto entusiasmante, però questo con le voci di Atlanta c'era sembrato appunto ancora un po' più così pieno di sensazioni. Benvenuto intanto, un grande sportivo al Salone del Risparmio, Iori Checchi, un grandissimo atleta per quelle due o tre persone a livello mondiale che non ti conoscessero, naturalmente abbiamo ricordato un po' chi sei. Adesso potrei anche rimettermi a fare tutto il tuo curriculum, ma in realtà forse questa mattina non abbiamo tempo, ma è ben noto. In ogni caso le tue prestazioni sono impresse nel nostro cuore, nella nostra testa, anche perché parliamo davvero, quando parliamo di Iori Checchi, di uno di quegli sportivi veri che uniscono alla grande disciplina e alla grande determinazione per il raggiungimento di certi risultati, di certi successi, anche l'intelligenza, dico anche il carisma, che non è detto che siano sempre qualità tipiche di tutti gli atleti. Vado subito. No, continua, Iori. Deborah, continua, perché posso, mi piaceva tantissimo. Sì, esatto, ti stai gongolando di tutti i complimenti. Ti ascolto tutti i giorni, ma ora sempre di più. So che sei anche un grande fan di Radio 24 e di Cuore Denaro, anche perché sei anche un investitore attento, per cui hai un occhio anche molto attento, certo, al mondo del risparmio, ma adesso ne parleremo. Segnalo ai nostri ascoltatori che sei stato invitato da Anima SGR per prendere parte alla conferenza organizzata appunto sul tema rinnovarsi per eccellere, come restare ai vertici in un mondo che cambia, perché questo è vero in tutti i campi, in tutti gli ambiti, lo è anche nello sport. E la tua carriera un po' si racconta molto bene anche in questa sintesi, perché è stata costellata di successi incredibili e di alcuni momenti di stop che sono sembrati particolarmente molto rilevanti per te, dai quali poi ti sei ripreso alla grande. Raccontaci di queste sfide, Iori. Ma sì, è stata un'esperienza bellissima la mia avventura sportiva, coronata con il raggiungimento di un sogno che avevo da bambino. Io ho avuto la capacità di capire cosa volevo fare da grande, perché avevo dei genitori che pensavano appunto che lo sport fosse un buon metodo per crescere, per formarsi, per trovare le giuste ambizioni. Una palestra dove ti portò tua sorella, mi ricordo male. Casualmente, proprio mi innamorai. Io ho iniziato con lo sport, ho avuto sport diametralmente diversi, ciclismo, pugilato, sport molto maschili, no? Mio padre. Poi un giorno disse: babbo, io voglio fare la ginnastica artistica. Lui dice: ma uno sport a donne, un po' preoccupato. Poi invece capì che era uno sport anche questo molto molto virile, molto mascolino. E ho iniziato questa avventura e mi ricordo che in terza elementare ci diedero un pensierino, no? Cosa vuoi fare da grande? Chi scrisse? L'astronauta, l'infermiere, il promotore finanziario, non è vero, ma mi sembrava l'atleta. Io scrissi da grande voglio vincere le Olimpiadi, punto, e consegnai questo tema. Quindi avevo le idee molto chiare e questa passione forte che mi ha portato in un percorso molto molto bello, anche se pieno di gioia e di dolori, a raggiungere questo sogno. Infatti, allora, peraltro, ecco, i momenti dal punto di vista del down più significativi sono stati, lo ricordiamo, Barcellona 92, sì, quando appunto fu contrassegnata questo momento da questo infortunio che ti impedì di prendere parte appunto a questa competizione, alla quale poi tu presi parte come concorrente, sì, nel settore, vero, come commentatore sportivo. Dopodiché appunto ci fu l'altro momento del 2000, Olimpiadi di Sydney, quindi la rottura del tendine brachiale, questo lo dico a beneficio di Nicoletta, che sostituisco stamattina, speriamo degnamente, dando anche i termini appunto scientifici delle varie muscolature, dei vari tendini. E qui in questo caso preparazione delle Olimpiadi di Sydney, stop, e poi ritorno alla grande con il bronzo di Atene del 2004. Tra l'altro, io sai perché ho voluto mettere anche il commento con le voci americane, anche se quello italiano era altrettanto valido, mi è rimasto molto impresso l'inchino che tu hai fatto mentre conservavi gli 8 secondi sugli anelli appunto alla platea, quindi davanti, di fronte, e i due inchini, sì, laterali con lo sguardo. Quello è stato un esercizio di un galà per i primi medagliati, esatto. I medagliatori facevano questo galà e quindi mi sembrava una cosa carina, un po' fare, visto che lì il giudizio non era importante perché la gara è stata fatta il giorno prima e l'esercizio per la medaglia era a posto, quindi è uno show, è una cosa di per gratificare le tante persone che erano lì. Io mi sono insomma, ho fatto anche il record di tenuta della croce, quindi questo sono esatto, il Guinness dei primati per questo. Hai visto altro che 8 anni, tu pensi, potevi mai pensare di arrivare a tutto questo. Senti, te lo avranno chiesto 1000 volte, te lo faccio raccontare di nuovo, tornando appunto a questi due momenti un po' critici, perché il tema è capire come fare in modo che momenti difficili possano essere poi colti come in realtà momenti di opportunità per la vita di tutti. Come eri attrezzato emotivamente in quel momento? Come hai trasformato quelle due crisi del tutto inaspettate in opportunità per ulteriore crescita professionale e sportiva per te? Il Barcellona del 92 è stata davvero una cosa molto difficile, molto complessa, sì, dirompente. Sai, io ricordo che, non so, ti sarà capitato, vi sarà capitato di fare un brutto incubo, no? La notte che poi apri gli occhi e se stai bene, per dire, è solo un incubo. Ecco, a Barcellona è stato così. Io quando ho sentito questo rumore pazzesco del tendine che si rompeva, pensavo si fosse rotta la pedana, poi invece il piede penzolone, ho detto no, è il tendine, e ho aperto gli occhi, come dire, ecco, è un sogno, e invece era la cruda e nuda realtà. E quindi è stato molto complesso. Ero molto bravo in quella specialità, nel corpo libero, dove mi sono fatto male, e potevo vincere le medaglie in quella specialità alle Olimpiadi. Ho dovuto cambiare diametralmente le mie opportunità, le mie performance, quindi trasferendo in quella che era sicuramente un momento di difficoltà un'opportunità, e quindi modificando, visto che al corpo libero non avevo più grandi possibilità con il tendine, anche se riattaccato, ma non aveva la funzionalità di prima, mi sono spostato un altro attrezzo a me molto caro, come gli anelli, e nella crisi, diciamo, ho creato un'opportunità, perché poi ho lavorato trasformandomi anche da un punto di vista proprio morfologico, facendo un lavoro molto attento, molto difficile, per primeggiare anche nella specialità degli anelli. Lavoro molto difficile, immagino, anche dal punto di vista emotivo e mentale, no? Come ci si convince del fatto che bisogna cambiare anche un po' traiettoria, rieducare non solo la muscolatura ma anche un po' tutto l'approccio alla propria disciplina sportiva. È molto difficile, però guarda, in tutto nella mia storia, in fondo davvero non lo faccio per essere modesto, ma è una piccola storia che racconta, altri raccontano in maniera molto di più quello che voglio dire, cioè che ci sono dentro di noi le caratteristiche, le risorse, le potenzialità, le forze per reagire e uscire da momenti difficili come quello. Basta avere la convinzione, la determinazione, il coraggio di provarci, di osare. Questo è molto importante, non c'è bisogno di essere dei grandi eroi per fare queste cose, perché abbiamo dentro di noi le forze per farlo. Osservando naturalmente le tue prestazioni sportive, noi immaginiamo che tu possa essere anche durante la fase dell'allenamento un individualista, oppure bisogna anche tu di un team che ti supporti, oltre che di un coach appunto che ti alleni? La ginnastica artistica è chiaramente uno sport individuale, la tua performance sei tu con gli attrezzi sempre uguali che non cambiano, quindi sei tu da solo, ma certo dietro c'è un lavoro importantissimo del team, dell'equipe, dell'allenatore, del fisioterapista, gli stessi compagni di squadra che sono colleghi con i quali impari, migliori, ti alleni, quindi è certamente molto importante il lavoro del team, chiaramente diverso da uno sport prettamente di squadra come può essere il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, ma il team anche nella ginnastica è molto importante. Andiamo al tema che ti hanno assegnato per la conferenza stampa che ti vedrà protagonista fra una decina di minuti, quando nostro malgrado dovremmo lasciarti andare: rinnovarsi per eccellere. Ci spieghi appunto, ritornando anche un po' a questi passaggi della tua vita sportiva, cosa significa per te questo concetto? Che valore ha per uno sportivo, per un atleta affrontare il tema del cambiamento, non solo legato alla difficoltà, perché magari possono esserci anche passaggi diversi nel corso della propria vita, perché si cresce insomma naturalmente, magari ci si sposa, si hanno dei figli come è successo anche a te, e credo che sia necessario fare anche ordinaria manutenzione non solo del proprio fisico ma anche del proprio approccio alla disciplina sportiva, quindi allenamento muscolare ma non solo. Cosa significa in tutta la vita di uno sportivo allenamento e rinnovarsi per eccellere sempre? Ma guarda, io penso che per arrivare all'obiettivo, al successo, per me il successo equivale a raggiungere il proprio obiettivo, no? La cosa fondamentale è il lavoro, la metodologia, il lavoro, il fatto di sapere bene la strada che devi percorrere, la percorri e arrivi all'obiettivo. E ci si arriva. La cosa forse più difficile è mantenere poi quello standard, quel successo, e io ho capito nella mia vita sportiva e professionale che una cosa importantissima da fare è quella di avere la caratteristica che secondo me è un po' quella dell'umiltà, quando sei lassù, di tornare indietro e rifare esattamente le stesse cose per cercare di riagguantare lo stesso successo. Se quando sei arrivato su ti adagi un attimo e dici vabbè, ci sono arrivato adesso, forse faccio un po' meno fatica, ecco, è la volta buona che gli altri dietro, che hanno voglia di arrivare lassù, ti sorpassano e riescono a avere con la fame del risultato, certo. E non è molto, non è così scontato, perché io, come tanti, provare ad arrivare lassù, ti viene di la sensazione di adagiarti un attimo, di fare un po' meno fatica. Ecco, l'errore che non si deve fare, l'umiltà di rifare sempre le stesse e cose, tenere sempre un po' alzata la guardia, sostanzialmente. Allora Yuri, io adesso devo andare a vedere un po' cosa succede in borsa, poi parleremo anche di te come testimonial di campagne legate alla salute. Ne hai messo la faccia su due fasi, appunto, situazioni molto, molto interessanti e molto importanti. Ma non solo, non ho chiesto ai nostri ascoltatori di intervenire in diretta. Noi siamo in diretta dal Salone del Risparmio con Yuri Checchi, per cui se al volo volete interagire con lui avete la possibilità di farlo all'800 24 00 24, un inizio di puntata un po' rocambolesco, ma abbiamo recuperato al volo e naturalmente siamo a vostra totale disposizione. Adesso mercati. Cuore e denari. Di momenti di gloria lui ne ha vissuti, è sempre con noi Yuri Checchi qui dal Salone del Risparmio, ed è un momento di gloria per Cuore Denari averlo qui e anche per gli ascoltatori. Ti segnalo, Yuri, che Giulio ci scrive: bellissimo ricordo di Yuri Checchi, di una stretta di mano più autografo in un bar di Prato dopo la maratonina del 98, mi commuovo ancora. Quindi insomma già grazie. Qualche ascoltatore che ti ricordano, e molti ascoltatori che segnalano invece l'apprezzamento per il garbo con il quale questa mattina ti stiamo ospitando e intrattenendo. Ci mancherebbe pure altro che ti trattassimo male. Allora, però chiamateci anche se volete all'800 24 0024 per chiacchierare con noi sul tema anche del rinnovamento, per mantenersi sempre sull'onda del successo. Naturalmente bisogna fare un lavoro di ordinaria e costante manutenzione, naturalmente, anche per conservare questi traguardi sempre con noi. Peraltro, Yuri, vale la pena anche ricordare che tu hai prestato il tuo volto a molte campagne di sensibilizzazione su certe patologie, no? Ad esempio sulla sarcopenia, che è una sindrome caratterizzata dalla perdita progressiva di massa muscolare, una cosa che tutti noi prima o poi dobbiamo affrontare. Ecco, e poi esatto, diciamo che c'è chi lo affronta per una questione, diciamo, fisiologica legata alle gambe, invece certo. Esatto, questa peraltro è un'epidemia che qualcuno definisce silenziosa e colpisce 5 milioni di persone in Italia, e 8 over 60 su 10 non sanno che cosa sia, per cui bisogna fare appunto molta informazione. Poi sei stato anche testimonial per i malati di Parkinson. Sì. Cosa vuol dire per uno sportivo metterci la faccia su queste campagne? A parte due esperienze molto molto belle e gratificanti, però siccome io credo che lo strumento, l'unico, forse il migliore strumento che abbiamo per raggiungere i propri obiettivi, e uno di quelli è avere una vita lunga e sana, certo, è il nostro corpo, e quindi credo che sia importante cercare di gestirlo e curarlo in tutte le fasi della nostra vita. Io mi sono avvicinato, diciamo, al problema della sarcopenia perché dopo i 40 anni, che praticamente pochi minuti fa, non è che... Guarda che sei mio coetaneo, esatto, per quindi cui... appunto siamo... Esatto, esattamente. Ho davvero sentito una modificazione importante della mia... Altro muscolatura, che... no? Tu ancora, anche tu. Anche io diciamo che non faccio le tue performance sportive, mi alleno, vado in palestra, ma sento la differenza rispetto già a 2-3 anni fa. Per e cui... ti posso dire che invece ho conosciuto davvero atleti straordinari che a 80 anni fanno delle performance straordinarie, e sai come? Senza segreti particolari, con un attento allenamento e un'alimentazione esattamente diversa. Esattamente, allora facciamo migliore. Contenta Nicoletta che oggi non c'è. Sull'alimentazione invece che cosa fai di speciale, particolare o di regolare? Guarda, così. Ho cambiato un po' da questo momento in cui vedevo quel muscolo, nonostante l'allenamento non aveva quella attività e quella reattività e quella anche, diciamo, massa, perdevo massa, e perché sbagliavo e ho eliminato i grassi e gli zuccheri, e aumentando un po' la parte proteica, e questo secondo me nelle giuste attenzioni, nelle giuste quantità, chiaramente certo, seguito da chi se ne intende, non da un nutrizionista quindi che se ne intende, aiuta molto. quando non ci si fa con l'alimentazione normale, anche dei supplementi orali possono aiutare, sempre a base proteica, però qui si va sulla patologia, che invece è molto importante, ma non è per fortuna nel mio caso. È davvero, è quasi immediata, quando cambi l'alimentazione, la migliori a seconda delle tue esigenze, del tuo corpo, è immediato quanto il muscolo riprende, quanto migliora. Adesso può sembrare, appunto, ma in realtà anche l'alimentazione, come per tante magari terapie farmacologiche, anche lì, se più è mirata, devo dire che effettivamente il nutrizionista, quanto più conosce effettivamente le caratteristiche nostre, delle nostre abitudini, oltre che le nostre capacità, insomma, magari apparato endocrinologico e digestivo, ma effettivamente anche quello è importante. Lascerò però a Nicoletta tutto questo, perché vorrei andare invece torno a te come... quando c'è Nicoletta, anche un'altra volta, se mi invitate, certo, è grande. Certamente, okay. Il prossimo salone di qualunque tipo ti riacciuffiamo. A proposito delle tue partecipazioni, ti chiamano molto spesso anche per fare il testimone alla convention aziendali, e tu riporti la tua esperienza sui temi della gestione del successo e la gestione delle sfide, no? Però secondo te, nello sport come nel settore imprenditoriale, manageriale, qui oggi siamo nel regno della consulenza finanziaria, che è un terreno pure questo di enormi sfide professionali, in che modo a queste categorie può essere utile l'esempio di uno sportivo come te, per esempio sul tema della gestione dello stress? Che tipo di indicazioni dai? Ma guarda, io ho gestito lo stress in questo modo, nel senso che credo, come ti dicevo all'inizio, molto nella preparazione, nella programmazione, nel fatto che se io devo raggiungere un obiettivo, faccio la strada che devo percorrere, sono pronto a quell'obiettivo, perché devo fallire? Io ad Atlanta, per esempio, ricordo veramente netto del momento prima dell'esercizio, chiaramente pensa alla tensione, avevo lavorato 4 anni dopo l'infortunio, avevo quel minuto e mezzo e basta, solo quella possibilità, non avevo un'altra chance, quindi c'era una grande tensione. Prima di salire ho proprio pensato solamente a questo, ma io ho fatto 4 anni tutto quello che devo fare per arrivare qua e fare esattamente quello per il quale sono programmato, perché devo fallire? Ho fatto l'esercizio, di quel minuto e mezzo non ricordo nulla, è incredibile. Completamente cancellato. Completamente, ero preparato per quello, come un computer, no? Preparato, poi ricordo benissimo dell'arrivo perfetto, come l'avevo anche immaginato, anche perché la parte mentale è altrettanto importante. Io quell'esercizio l'ho rifatto nella mia testa tante di quelle volte, e la cosa incredibile è che non ho mai sbagliato. Quindi anche la predisposizione, diciamo, mentale, psicologica, era positiva al momento, alla performance. E quindi io credo che sia... questo è un aspetto molto importante. Se tu sei preparato, la gestisci bene lo stress, e se sei impreparato è molto più complicato. Questa credo appunto sia la base di partenza già importante. Il tempo a nostra disposizione sta quasi scadendo, ma ti ho presentato anche come un investitore attento, oculato, molto selezionatore anche di informazioni. Raccontaci un po' qualcosa di te da questo punto di vista. Peraltro hai due figli, come trasmetti anche loro il tema e la cultura del risparmio e l'educazione del risparmio? Quindi A, perché ti interessano questi argomenti, B, come li trasferisci ai tuoi figli? Mi interessano perché credo che il risparmio sia una cosa fondamentale per tutte le persone, e io ho iniziato fino conto... a che punto, fino a che misura ti interessi? Abbiamo degli ascoltatori, sì, mi stanno segnalando Marco. Guarda, io nell'88 eravamo ragazzini, ti ricordi, nell'88 quando ho iniziato a fare il professionista, 19 diciamo, brava, anni, stavamo facendo la maturità, esatto, brava. Ho fatto le Olimpiadi di Seul, quindi ho iniziato lì il professionismo della mia attività, e mi sono reso conto che quelle pochissime lire che avevo guadagnato dovevo gestire nel modo migliore possibile, e proprio in quel periodo un ex collega, un ginnasta, aveva smesso di fare l'attività ed era diventato promotore finanziario, aveva fatto il corso, no? Sì, non so se si fa ancora così, c'è un esame durissimo, altro che. Lui divenne promotore finanziario e diedi a lui, mi ricordo, 6 milioni di vecchie lire da far gestire, e da lì è iniziato un percorso di gestione insieme a persone preparate, capaci, nonostante io sia abbastanza informato, perché credo sia importante dare fiducia a un promotore, ma non devi essere ignorante, diciamo, in materia, perché devi confrontarti, certo, condividere quantomeno, e soprattutto obiettivi. Insieme, brava, capire quali sono gli obiettivi, perché molte volte l'errore che si fa è quello di non capire esattamente quello che vogliamo dall'investimento. Si cerca un rendimento e basta. Esatto, la condivisione dell'obiettivo è un tema molto importante. Ti faccio ascoltare cosa vuole dirti Matteo da Sassari, perché altrimenti gli ascoltatori non li abbiamo neanche accontentati. Dopodiché dobbiamo salutarti. Matteo, veloce, grazie. Buongiorno, ho conosciuto, mi chiamo Matteo, chiamo da Sassari. Ho conosciuto personalmente Yuri Chicchi per lavoro, e devo dire che oltre ad essere un campione veramente eccezionale nello sport, è veramente un campione come uomo, come persona, è veramente eccezionale. Vorrei tutti che lo conoscessero, Yuri, perché veramente molti dovrebbero essere come lui. Grazie Matteo, grazie, abbiamo grazie, tantissimi Matteo, grandi sportivi così, naturalmente non ne siamo ben contenti. Qua si parla anche di obiettivi, come ti vedi fra qui, da qui a 10-20 anni, Yuri? Sempre saltellando come... No, mi vedo bellissimo come sono adesso. Su questo non abbiamo nessun dubbio. Grazie, della piccola bugia no. Mi vedo con la possibilità di fare ancora nella vita qualcosa con passione, mm-hmm. con piacere, e credo che sia fondamentale trovare davvero una cosa che ti dà motivazione, altrimenti io adesso faccio un imprenditore e sto facendo cose anche molto interessanti, ma cerco sempre di trovare il giusto equilibrio fra il profitto maggiore, perché è importante, e la qualità della vita, perché credo che questo sia il segreto per stare bene con se stessi e con gli altri. Ti riaspettiamo presto qui, grazie. A Radio 24, grazie tantissime, grazie molto, grazie, buona Deborah. Conferenza, noi adesso sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e poi facciamo un rapido cambio con il prossimo ospite. Cuore e denari. Abbiamo dovuto salutare Yuri Chechi, ma la chiacchierata con lui è stata davvero molto, dal punto di vista motivazionale, interessante, e non può che aiutarci a costruire solide, il caso di dirlo, basi per continuare a parlare anche di risparmio, che è stato un po' quel tema che abbiamo affrontato nell'ultima parte della chiacchierata con lui. Avete sentito cosa vuol dire essere uno sportivo che fa ordinaria e straordinaria manutenzione delle sue condizioni fisiche e mentali per continuare a mantenere delle prestazioni sempre all'altezza della situazione, e naturalmente sono tutti concetti che si sposano benissimo con il mondo del risparmio, quindi continuiamo su questo tema qui dal Salone dell'Università Bocconi, e per noi naturalmente è anche un'occasione speciale per proporvi la nostra rubrica del giovedì, Investire Informati. Investire Informati. Proprio per aiutarci ad investire informati, ci ha raggiunto anche qui al Salone del Risparmio, qui nella nostra postazione di Radio 24, Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche uno sportivo, beh, diciamo non all'altezza di chi mi ha preceduto, però diciamo cerco di farlo. Non si è mai cimentato sugli anelli. Gli anelli mai. Non è banale quell'esercizio là, quella disciplina sportiva lì, veramente. No, non mi pronuncio. La muscolatura di Yuri, che è veramente di tutto rispetto, ma cioè io riguardando anche in questi giorni un po' i filmati delle sue performance incredibili, mi rendo conto che quella è una disciplina veramente per molti di noi assolutamente inavvicinabile. Sicuramente. Rinnovarsi e affrontare i cambiamenti, dottor Gaudio, strategia vincente per essere sempre attenti e pronti a ottenere il meglio di noi, e in questo caso per i nostri denari. Noi abbiamo parlato con Yuri Chechi, ma immagino anche che sia la medesima visione che sposa anche il professionista della gestione del risparmio altrui. Certo, ma io credo che adesso senza alcuna presunzione, ma credo che tra sport e risparmio ci siano certamente delle similitudini. Ecco, io sono uno sportivo, ripeto, non ai livelli di Yuri, ma credo che anche nel risparmio, per ottenere risultati come nello sport, ci voglia disciplina, ci voglia preparazione. E sottolineo soprattutto quest'ultima parola, preparazione, perché molto spesso sia per il gestore che per il risparmiatore è necessaria formazione, disciplina, procedure molto rigide, come nello sport, e anche nello sport credo che ci sia la differenza tra gioco e attività sportiva. Molto spesso si parla giocare in borsa, che è un termine tremendo. Sa che ho pensato tremendo. La stessa cosa, io mi arrabbio sempre ogni tremendo. Volta che lo sento. E credo che anche per uno sportivo professionista come Yuri la differenza tra gioco, giocare, e essere invece uno sportivo disciplinato ad altissimi livelli sia una differenza fondamentale. Tra l'altro veramente questa questione, questo concetto che sento anch'io ribadito spesso da molte persone che conoscono, che proprio non riescono ad intuire la differenza fondamentale fra questi due termini, tra investire in borsa, comunque puntare sulla borsa, fare un piccolo investimento in borsa, e il giocare, è veramente del tutto inappropriato utilizzare questo secondo termine. Comunque noi continuiamo anche ad aspettare gli interventi dei nostri ascoltatori all'800240024. Oggi vi voglio chiedere, quindi rifletteteci, poi magari ne parliamo attentamente nella seconda parte di Cuore e Denari. Quando quando è stato difficile affrontare un cambiamento di strategia nel vostro risparmio? Con che spirito lo avete affrontato e di che cosa si trattava? Per esempio, vendere un pacchetto di azioni in perdita è molto doloroso, no, dottor Gaudio? Perché si vorrebbe sempre che il grafico fosse... andasse sempre bene. Certo, invece non è così. Oppure, al contrario, è stato doloroso decidere di capitalizzare un buon risultato. Non vi decidevate a farlo perché eravate convinti che potesse darvi ulteriori soddisfazioni in termini di rendimento, quindi anche quella una piccola trappola, tra virgolette, che bisogna emotivamente gestire. O per esempio è stato difficile decidere uno switch, un passaggio da un fondo di investimento ad un altro, perché uno magari non corrispondeva più alla vostra esigenza, alla vostra attitudine, alla vostra propensione al rischio. Insomma, 800 24 00 24, ci confronteremo con Vittorio Gaudio su questi argomenti. Dottor Gaudio, ma un bravo gestore di fondi di investimento ha le stesse qualità di un grande atleta come Yuri Kekki? Che tipo di doti sono necessarie per fare questo lavoro? Determinazione, allenamento, capacità di gestire lo stress? Beh, certamente quest'ultima direi di sì, ma guardi, ogni tanto qualcuno mi dice il gestore deve essere un bravo player solitario oppure agire in team, serve la squadra, come gestire le passioni e le emozioni. Guardi, qualche anno fa a questa domanda avrei risposto forse diversamente, nel senso che avrei accentuato un po' l'aspetto romantico del gestore che opera da solo, il guru, no? Questa parola che spesso si usa. Ecco, io credo che invece oggi i risultati migliori arrivino proprio da una disciplina, da una squadra. Se andiamo a vedere i risultati di gestione migliori, molto spesso arrivano da società di gestione molto grandi, quindi molto equipaggiate in termini di ricerca, di capacità di interpretare i mercati. Quindi certamente ci vuole bravo solista, ma solista da solo non serve. Quindi ci vuole una squadra preparata, una squadra in termini di ricerca, di possibilità tecnologiche. È un lavoro difficile oggi. E questo però ci aiuta per venire anche alla sua domanda, lo stress. È chiaro che lo stress, se gestito collettivamente, si gestisce meglio. Si condivide un po' il tema della condivisione anche a quei livelli importanti. Ma come qualsiasi squadra, ecco, anche in questo, voglio dire, paragone sportivo è calzante, perché certamente pensiamo al calcio, allo sport nazionale, abbiamo sicuramente atleti straordinari, però ci vuole lo spogliatoio. Allora, naturalmente, così come uno sportivo deve reagire di fronte ad un infortunio, imparare a rialzarsi, cambiando il suo modo di allenarsi, come ci ha raccontato in due frangenti molto importanti della sua vita Yuri Kekki, occorre adattare anche lo stile di gestione ai cambiamenti continui, a volte repentini dei mercati come quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Cuore e denari. Cuore e denari, sempre in diretta dal Salone del Risparmio. Il nostro è lo stand M12, molto ben visibili all'ingresso della Università Bocconi, che ospita questa manifestazione, la sua sesta edizione. Soprattutto, se avete voglia di venirci a trovare, passate, siamo naturalmente qua pronti a ripartire con Investire Informati. Investire Informati. D'altronde questo è il tema di cui si parla in questi tre giorni. A 360 gradi si parla di risparmio per i giovani, di risparmio anche per le persone magari un po' meno giovani, perché d'altronde anche, dottor Gaudio, la longevità è il grande tema del momento. Con noi Vittorio Gaudio, stamattina amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Siamo però arrivati dall'intervista che ci ha rilasciato Yuri Kekki. Abbiamo parlato di fasi della vita in cui è necessario affrontare un cambiamento, e questo può essere vero anche nel momento in cui si decidono delle strategie di investimento. Allora, vi abbiamo chiesto, e se volete naturalmente intervenire in diretta potete farlo all'800 24 00 24, quando è stato difficile affrontare un cambiamento di strategia nella gestione del vostro risparmio, di cosa si è trattato, con che spirito lo avete affrontato. Torniamo a confrontarci su questo in diretta. Per esempio, abbiamo fatto un po' appunto di esempi prima, no, dottor Gaudio? Vendere un pacchetto di azioni, non sente il dottor Gaudio? Chiedo a Pietro appunto di intervenire, eccoci qua, abbiamo ripristinato anche la cuffia. Può essere difficile affrontare per esempio la necessità di vendere un pacchetto di azioni in perdita, è un grande dolore, no? E di solito la perdita dell'investimento azionario è molto più dolorosa della soddisfazione di un buon guadagno, è vero? Beh, anche perché il gestore è un uomo, una donna naturalmente, quindi è un essere umano dove c'è anche un effetto di consapevolezza di quello che si sta facendo. È chiaro che quando io acquisto un titolo penso sempre sempre che sia il migliore, ammettere di aver sbagliato umanamente certo. È difficile, però guardi, anche in questo caso la massima disciplina è il modo migliore per andare avanti, per costruire i propri investimenti. Noi come lo facciamo? Con regole molto rigide. Gli ascoltatori, sicuramente i più tecnici, conosceranno parole tipo stop loss. Sì, certo. Cosa vuol dire? Che quando capisco che il mercato mi sta andando contro, e questo può succedere, il mercato è notoriamente imprevedibile, si cerca di prevederlo ma è sempre abbastanza complesso come fenomeno, quando mi rendo conto che i risultati non arrivano è bene applicare delle regole ferree, quindi passare, ecco, non vorrei usare un paragone, un cavallo diverso perché ricorda appunto il gioco, la scommessa, però certamente si cambia strategia. E devo dirle, siamo in tempi straordinari, perché se mi consente parlare anche di quello che sta succedendo, certo. Il mondo dei tassi a zero sta cambiando tutto, tutto sta cambiando, quindi noi dobbiamo anche essere pronti ad avere dei paradigmi diversi da quelli a cui siamo stati abituati nel tempo. Anche perché ci si sta allenando in questo scenario che è anche abbastanza inedito storicamente parlando. Ma nessuno è pronto a questo, guardi, nessuno è pronto, e io credo che forse le persone ancora meno pronte, dobbiamo aiutarle in questo, sono i risparmiatori italiani che vengono da un mondo di tassi a zero, da tassi elevati, scusate, che adesso invece sono a tassi a zero, devono abituarsi a questa realtà nuova, perché guardi che ancora oggi ho dei clienti, dei risparmiatori che mi dicono come si fa ad avere dei rendimenti del 3-4%, ma 3-4% è una cosa impossibile oggi devi andare neanche il trentennale italiano, cioè quindi stando su titoli così lunghi riescono ad avere dei rendimenti così elevati. Quindi chiaramente noi dobbiamo cambiare, il cambiamento come lo si affronta? Non solo con le strategie di gestione ma anche con dei prodotti giusti, dove i prodotti devono essere più liberi forse di agire di quanto non fossero in passato. Cosa intende con questo? Ad esempio la flessibilità, il fatto che il gestore sia libero di poter spaziare su un universo molto ampio di prodotti e di mercati, vede anche a livello diciamo commerciale come i prodotti cosiddetti flessibili, multi asset, adesso non voglio entrare troppo sul tecnico, stiano ricevendo comunque un grande interesse. Perché? Perché si capisce che oggi in un mondo così cambiato è necessario che il gestore abbia tutte le leve in mano disponibili, e quindi questo è quello che noi stiamo offrendo, certo. E credo un po' tutto l'universo, l'industria, esatto, sta offrendo. La tipologia, la strategia multi asset è quella che effettivamente stanno adottando da qualche molte case di gestione, esattamente. Per esempio in casa Mediolanum, ma che tipo di approccio ha il vostro multi asset? Ma, guardi, magari spieghiamolo anche con un esempio, se ritiene. Sicuramente. Allora, noi partiamo dal presupposto che il grosso dei risparmiatori, anche i nostri, alla fine ancora molto, non direi tutto, ma molto in titoli di Stato. Ecco, noi vedevamo una statistica di Banca d'Italia di qualche mese fa in cui risulta che sostanzialmente ancora metà dei risparmiatori italiani detengono i loro soldi dove? Depositi bancari, conti correnti, obbligazioni bancarie e titoli di Stato. Quindi stiamo parlando di tanti soldi, stiamo parlando di 1.800 miliardi. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare è dargli delle alternative che non lo allontanino troppo dall'investimento tradizionale, quindi vuole vedere delle cedole, vuole sicurezza, però gli consenta anche di offrire un pochino più di valore, proprio perché partendo da rendimenti così bassi, ad esempio un pochino, certo, di azionario, un po' di diversificazione valutaria, diversificazione tra tanti gestori, perché sono tutti bravi, per carità, però io preferisco tutto sommato non mettere tutti i miei soldi su un interlocutore unico. È quello che facciamo con grande buonsenso, capiamo che alla fine l'investitore italiano è un investitore abbastanza conservatore, perché parte dai titoli di Stato, e quindi non vogliamo fargli fare dei salti nel vuoto, ecco, vogliamo dargli tranquillità, sicurezza, quello che in qualche modo ci sembra di riuscire a fare, certo, in questi mesi. Sentiamo allora come affrontano i necessari cambiamenti quando si manifestano queste fasi anche un po' nuove, oserei dire eccezionali, perché effettivamente questa situazione di tassi di interesse così bassi su tutte le asset class è davvero incredibile. Allora chiaramente sono un po' alla finestra gli ascoltatori, tese di capire che cosa fare. Sentiamo Maria da Bologna come sta affrontando questo cambiamento. All'800 24 00 24, Maria, benvenuta. Ci fa molto piacere che su questo argomento la prima a chiamare sia una donna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Beh, direi che in pratica l'esperto mi ha già abbastanza risposto, perché la domanda era appunto: è opportuno investire nel mercato azionario? Direi di sì, perché i tassi sono talmente bassi che non si può sperare in niente, insomma, quello che ha detto l'esperto grosso modo mi ha già risposto. Però io ci aggiungo anche, Maria, un altro aspetto, che comunque già in realtà il mercato azionario è cavalcato da qualche mese, tanto che gli investitori hanno spinto i listini di mezzo mondo su livelli molto alti. Qualcuno addirittura pensa, ma insomma non avremmo esagerato, non staremmo creando anche una bolla sull'equity, che è la parola inglese appunto per definire mercato azionario, quindi anche lì abbiamo di fronte a noi un po' un piccolo conflitto, una piccola gabbietta dalla quale uscire, dottor Gaudi, insomma. Però guardi, io credo che come in tutte le cose quello che è fondamentale non è tanto dire sto comprando sui minimi, sui massimi, fare il timing come si usa dire, perché questo, guardi, è difficile per i professionisti, figuriamoci appunto per gli investitori di tutti i giorni. Secondo me quello che è fondamentale è spendere qualche minuto in più al momento dell'acquisto di un prodotto proprio per capire quali sono le reali esigenze. È chiaro che se una persona ha bisogno di questo denaro tra un anno o tra 10 anni cambia tutto, quindi questo è il primo check up che bisogna fare. Ripeto, forse vado su banalità, però molto spesso io mi accorgo parlando con i clienti che questa è una domanda che invece ci si pone troppo poco. Io credo poi che i mercati azionari, sicuramente alcuni di questi hanno viaggiato molto bene, pensiamo al mercato americano, però non sono ipercomprati, non sono troppo cari, ci può stare qualche momento di volatilità di breve termine, questo lo vediamo e ci sarà sempre nella logica dei mercati, però ecco, se penso semplicemente che oggi un dividendo su molti titoli cosiddette blue chips italiane rendono 3-4 volte del rendimento su titoli di Stato italiani, mi sono già dato una risposta, ecco, quindi anche per un investitore che mira al dividendo, classico cassettista come si usa dire, beh, credo che l'investimento azionario possa ancora riservare delle sorprese positive. Quindi i prodotti a cedola comunque, le dici, credo sono ancora una carta ancora da bene. Credo che continueranno ad andare molto da bene spendersi. Ma sì, perché guardi, il cliente italiano, ripeto, è un cliente conservatore, attento a vedere tangibilmente i frutti del proprio risparmio, quindi credo che i prodotti a cedola continueranno ad andare bene anche quest'anno. Questo cliente conservatore, appunto attento al risparmio e alla concretezza del proprio risparmio, in Italia ha investito molto nel mattone negli ultimi anni, anche questo mercato adesso, dottor Gaudio, sta vivendo il suo assestamento, per fortuna non abbiamo avuto nessuna bolla dirompente in Italia come è successo nell'area anglosassone, come è successo in Spagna, però anche qui non è più quell'investimento considerato tradizionalmente un porto sicuro. Come sta approcciando secondo lei a questo mercato, visto che voi, a parte che lei gestisce i fondi appunto per Mediolanum, ma però voi siete anche banca, erogate anche mutui, quindi insomma da questo punto di vista abbiamo delle tendenze interessanti. E poi per precisione gestiamo anche fondi immobiliari, ecco. quindi siamo abbastanza attivi in questo settore. Beh, ci sembra di ravvisare qualche segnale di stabilizzazione delle compravendite, quindi noi abbiamo visto per parecchi anni, purtroppo ultimamente, che le compravendite diminuivano di numero, c'è una stabilizzazione, anzi addirittura qualcuno vede anche una leggera ripresa. Perché con questi tassi a zero il mutuo, esatto, adesso è molto chiaro, conveniente. Mutuo è molto conveniente. Poi io credo che comunque l'investitore italiano abbia nei confronti dell'immobiliare un aspetto anche per certi versi un po' irrazionale, nel senso che ci tiene talmente che poi alla fine non c'è mai stato un vero mercato, non abbiamo visto vendite copiose, abbiamo visto più che altro un congelarsi del mercato in questi anni. Adesso stiamo attendendo e ripeto, ci sono i segnali positivi che grazie al QE di Mario Draghi, a mutui così bassi, oltre dal congelamento si arrivi al disgelo, ecco, è questo che francamente ci aspettiamo e ci sembra di ravvisare qualche germoglio positivo. Dal congelamento al disgelo ci piace, insomma. Beh, questo in passaggio, esatto. Fabio dalla provincia di Roma all'800240024, benvenuto Fabio. Grazie, molto gentile. Grazie a lei. Grazie. Facevo solamente un commento, però grazie alla presenza del vostro esperto mi trovo a cambiare completamente il modo di approcciarmi al risparmio, in quanto da dipendente mi sono trasformato in un investitore, in quanto adesso gestisco una startup innovativa. Non sono un investitore primario, però comunque non sono più Fabio? Neanche Lui è un meccanico. Bene, no, perché già qua ipotizzavo l'ennesima app per lo smartphone, invece per fortuna qua in Italia ci attrezziamo con delle start-up molto più concrete, direi, non perché non lo siano le applicazioni che ci servono veramente per risolvere tanti problemi, ma quantomeno ancora un po' di manifattura, no, riusciamo a portarla a casa. Riusciamo ancora a farla, semplicemente che ovviamente per quanto riguarda l'app è più che altro essere un B2C, più consumer è un B2B, quindi le nostre innovazioni sono dei veri e propri investimenti per le società che andranno poi ad acquistarle, esatto. E di conseguenza noi ci troviamo nella condizione di chiederci se può essere sia come investitori ma sia anche come offerenti può essere appetibile lo strumento del Work for Equity che viene messo a disposizione e viene ad essere riconosciuto dal MISE come metodologia di pagamento, quindi anche investimento sia per noi sia per i nostri fornitori. E Fabio ci sta facendo avventurare questa mattina in un terreno che forse non c'è neanche particolarmente congeniale, ma in ogni caso Fabio ci lascia intuire che l'approccio al risparmio certamente intanto cambia da quando da lavoratore dipendente, dottor Gaudio, si diventa lavoratore autonomo. Già questo è positivo. Ecco, infatti, il mondo delle start-up è molto vivace, il Ministero dell'Economia che supporta con dei progetti speciali adesso questo mondo, come vede? Ma guardi, adesso al di là dello strumento specifico che è stato citato dall'ascoltatore, che io credo che sia interesse, io credo che anche il governo attuale lo stia sottolineando, creare delle alternative al finanziamento bancario dell'impresa. Sì. In cui l'Italia purtroppo si è in qualche modo avviluppato per troppo tempo, a mio parere, quindi è necessario che gli investitori istituzionali abbiano un ruolo, soprattutto nello sviluppo delle piccole e medie imprese. Come lei saprà, ad esempio, c'è questo progetto di Unione Europea del mercato dei capitali, che in qualche modo potrebbe essere veramente molto positiva. C'è il discorso dei mini bond che in qualche modo ci sta aiutando in questo senso, anche la nostra azienda si è in qualche modo affacciata a questa realtà. Quindi io credo che ci sia la consapevolezza di tutti che soprattutto le imprese più innovative, le piccole e medie imprese, debbano essere aiutate dagli investitori istituzionali. Ci vogliono naturalmente anche strumenti ad hoc, magari anche fiscalmente aiutati, perché sotto questo profilo è necessario che anche ci sia un incentivo sotto questo aspetto. Segnalo su questi argomenti proprio il titolo del Sole 24 Ore di questa mattina, che richiama anche un po' l'auspicio del Ministro dell'Economia Padoan, ieri proprio intervenuta alla plenaria qui del Salone del Risparmio. Si parla di risparmio degli italiani, meno del 10% sostegno delle imprese, perché effettivamente sulla borsa italiana si investe poco, poche società peraltro si quotano perché non credono molto, anche per la loro dimensione, per tutti i vincoli che una quotazione ha all'investimento appunto in borsa. È un tema certamente di grandissima attualità, del quale sentiremo ancora parlare. Sentiamo l'ultima domanda di Fabio Dacchietti, se ce la facciamo, non lo so, sì, se è rapidissimo. Fabio, buongiorno. Sì, rapidissimo, buongiorno. Per quanto riguarda la nuova emissione del BTP Italia, si prevede, se uno conviene comprare questo titolo e sperare in delle plusvalenze? Allora Fabio, guardi, noi non possiamo dare suggerimenti di investimento così espliciti. Detto questo, facciamo una cosa adesso, se vuole dottor Gaudio lo faccio commentare, certo. Magari su questo argomento faremo una puntata specifica, perché questo BTP Italia ha delle caratteristiche diverse rispetto alle precedenti emissioni, certo. Mi pare che durerà 8 anni, il nuovo rispetto ai 4 degli altri, questo nell'ottica di allungare la durata del debito, che è il grande obiettivo di Maria Cannata, direttore generale del debito pubblico italiano. Direi in questo momento di tassi a zero è evidente che se non si allunga la duration cosiddetta del debito pubblico non lo si farà mai più, ecco, quindi sostanzialmente oggi abbiamo un grosso appetito da parte degli investitori istituzionali nei confronti delle lunghe durate. Questo è partito sostanzialmente da quando il QE di Mario Draghi ha detto che ci sarebbero stati acquisti anche fino ai 30 anni e questo ha provocato proprio una corsa agli acquisti di titoli di lungo periodo, anche perché i titoli di lungo periodo ci sono gli unici tecnici che riescono a dare dei rendimenti un pochino appetitosi, perché certamente se stiamo su brevissimo termine tutto questo ormai non si ottiene. Io credo che ci sarà, adesso parlando del BTP Italia, comunque un successo, nel senso che il BTP rimane comunque a livello internazionale una delle asset obbligazionarie preferite. Qui stiamo parlando naturalmente di investitori retail, però diciamo l'interesse istituzionale poi alla fine si rispecchia anche sul mondo retail. Ci ritorneremo su questo magari proprio intervistando Maria Cannata, che generalmente viene sempre molto volentieri nel nostro programma. Dottor Gaudio, grazie, la lascio al grazie Salone a voi, del Risparmio, anche a noi saremo impegnati oggi, domani torniamo qua in diretta, grazie, e tornerà naturalmente con me anche Nicoletta Carbone. Grazie a Marco Lombardo, a Pietro Lacorte, Davide Cioce, Isotta Scena che è a Milano. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.